i tuoi problemi in radio non ce la fai. Continua, continua. Ascolta, se a me non mi parli, mi fa una cortesia. Quindi se non ascolti i problemi, sono i tuoi, io l'ascolto, non mi interessa neanche cosa stai dicendo, già nelle prime. Non crei i problemi a me, ma agli altri, capito? I problemi li stai creando agli altri, non a me. Se continui a parlare, ti parlo sopra. Per favore, stai zitto quando lancio il microfono, già nelle prime. Intanto non sei abituato a farlo. Gianni? Ciao, sì. Gianni? Fabrizio? Cosa stai creando? Ci provi a chiarire le cose al di fuori della radio. È più forte di te. Gianni, Antonio, non mi provocare, per cortesia te lo chiedo. Non ci voglio parlare con te. Sì, ma allora, non fare riferimenti. Sì, da quando ti sto sentendo in radio stai facendo riferimenti. I riferimenti sono causali, quindi... Stai zitto e parla con lo scelto, ragazzo, per favore. Guarda che non ti faccio più entrare in radio, non te lo dico più. Queste sono minacce. Antonio, per favore, allontanate da questo canale. Tu mi stai minacciando adesso. Poi Fabrizio, dici che sono io, Obiettivo. Poi Fabrizio, sono io qua, tranquillo e sereno. Poi sono io, bravante, non l'avevo mai visto, per carità, cazzo, provocatore. Lui. Gianni, vuoi riprendere? Tanti, Fabrizio, vai. Dove sei? Io lo so. Io te lo sai che vengo spesso, lì, quasi una volta alla settimana. Quindi quasi sempre ci vengo, lì. La conosco bene la zona. Ma quello che zona si chiama Fabri Montelva. E mi pare si chiama la zona di Montelva, però perlomeno quando ero con la vicina Torrettana. Che facevamo la forania come linea di controllo, la chiamavano zona Montelva, non so. E Montelva, c'era anche Mario che modulava da lì. Appagato. Ma che cosa usano questi pannelli sempre per l'energia elettrica? Vendita di energia elettrica. Ma alimentano che cosa? Che quello che voglio sapere, sì, perché producono energia lo so, però che cosa alimentano? Ma chi è il promotore di questo progetto qua? È qualche tipo Enel, la roba del genere, o sono di tipo privati? Questa è la parte dei magazzini dove sono gli uffici. Pagato. Quindi se io devo portare qualcosa domani non posso passare alla entrata principale. Ti ascolto sempre. Avanti, grotta. Io ho lo stesso basso, però ti ascolto. Comunque si può fare anche a livello privato, è già. Sì, ne ho visto che stavano piazzando. Io fornisco, noi diciamo come ditta, forniamo la mensa di Fiume Santo, quindi ti posso pagare di acqua, ma di Coca-Cola, di aranciata, latte, tutta questa roba qua. Grazie, un secondo, se Fabrizio mi ascolta meglio, Fabri. Vai, produci energia che dobbiamo modulare. Fabrizio. Ehi, vai Giuseppe. Ehi, buonasera a tutti quanti, Ciao Giuseppe, buonasera, mi ricordo. Ci è venuto per continuare a modulare. C'era un altro incidente, l'ho detto, passato io. Vicino al Bricco, ma al Bricco dove? Giù, al Bricco 7, perché sono passato dalla mia ex moglie, perché lì si aveva delle sigarette, e lì, stavo passando lì, sono passato a Sant'Orso e ho visto un altro incidente lì. Dove abbiamo visto tutta la striscia tanera? E un altro incidente, questa panda con una Peugeot. Insomma, c'era una sulla 131 poco fa più su Vivanini, se dovesse male la macchina. Ma non ho trovato secondo quello che c'era assieme a quelle si è sbattuto l'albero a Patton, cioè c'era un altro con lui. Sulle 10 e mezza c'è un giornale oggi, minchia che sono un Audi TT, si è spaccata in due, per togliere la lente, da un toccare le gambe questo, e ha detto ai carabinieri che c'era un'altra persona con lui, però non l'hanno trovata, si sarà curata lì lui, io penso. Io per esperienza ti dico una cosa, quando succedono questi incidenti sono scioccati e non capisco un cavolo. Una volta noi siamo andati a fare un incidente proprio lì dove c'è dall'incrocio della morte, visto che per andare verso la rotonda ci sono quelle curve, e uno ci è uscito con la macchina e ci ha detto che era insieme a un amico. Quando l'abbiamo tolto dalla macchina ci ha detto che c'era un amico suo, abbiamo allertato carabinieri e cose, e poi l'amico l'aveva già accompagnato, è stato in shock, non capiva più nulla. Massimo Spano si chiama questo. No, è lui. Un collega che c'è la macchina così. E tutti lo criticano perché c'è la macchina grossa, perché qua, ma che macchina si va degli affari suoi? Come ti va, dico, il travaglio che faccio per una macchina del genere? Al centro. fatto un giro, non ti fermare un primo. Ho fatto un giretto prima, io ho girato prima di prendere la macchina, ho girato. Poi ho visto che quella lì, secondo me, era la più robusta, la più ben rifinita, e ho preso quella lì. Ma non c'è la serie A oggi? La batteria? Serie A, non ce l'era oggi? No, la serie B, ha già aperto la nazionale ieri. No, stavo guardando lì, la Juventus 2-0 col Milan ha perso il 2. Cazzo, col Milan 2-0 ha vinto. No, da avanti. Riprendimi, sto ascoltando. Io non c'è problema, se mi entrare non c'è problema. Cappa Giuseppe. Cos'è? Non avevi sonno. Cos'è? Ho detto non avevi sonno lui. No, negativo, no. Però ho detto, sono andato dalla mia ex moglie a chiedere un paio di sigarette perché sono rimasto senza. Lascia la macchinetta. Lascia perdere quel discorso. No, ne avrei avuto quella questione, me l'avrei già comprata, capito? No, non è possibile che arrivano quei soldi veloci, già non so come andare avanti, non lo so, va. Sono incazzato anche per quello, capito? E non voglio di là e già lo sai come la penso io, già lo sai, no? Sì, ti capisco, Giuseppe, cosa vuoi fare? Non ti abbattere, quello è che prima poi girano le cose. Poi non mettermi, non fuma. Sì, c'è il gioco, no? Tu mi mangia, cazzo di più, si mangia che... di là che ha fumato. Pish, madonna mia, non ci fuma niente. Cazzo mi peso, che sono mangiato. Io ho fatto 78. Cazzo, non fa un po' più di me. Però tanto sono sceso 81. Con tutti questi giovani dei coglioni che ci ho invitato io, adesso sono sceso 80. C'ha ragione, Cla. E poi sembra fatta apposta. Uno ha preso all'altro, Pare che cazzo che così ti succede una cosa, cazzo, e tutto cazzo si deve accollare su di te, hai capito? Va. Un giramento di coglioni come questo periodo, cazzo, non l'ho mai avuto. Mai. Va, te lo giuro, cazzo, Cla. Come fosse. Vabbè, lasciamo perdere. Giuseppe, dimmi questo per anch'io, mi ho detto stamattina. Rilassati, stai tranquillo e sereno. Che vabbè che gira per tutti. Hai visto la carina, sono contentissimo, stamattina è venuto con la moglie, con lo sovrivente, ha trovato lavoro fisso, piano piano, ti posso garantire, questo è Gianni. Mi ha passato in tutti i colori, purtroppo un po' di pazienza, piano piano, vedrai che la ruota gira per tutti, Giuseppe, gira per tutti, comunque sia una stanza, lo sai che te lo dico, perché te lo posso dire, bastava di nuovo, stamattina le sigarette si compravano. Non so che è triste, ma bisogna avere un po' di pazienza. scusate la mia... vabbè, andiamo avanti, piano piano. Signore, amore, che mi dà un... ho qualcosa di salute e tutto quanto, il resto potrebbe andare bene. Lottatura senza paura, questo è il mio motto. Ha sentito che lui è piccato, lui è pugno qualcuno, violetti. Però piano, senza aiuto di nessuno, mi sono alzato con le mani. E piano piano bisogna combattere, vedi? Io che ho detto la manca, 3 mesi, 2 mesi, 6 mesi, poi mi fermo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 4, 2 mesi, poi mi fermo adesso, sai, soldini girano sempre, no? Disoccupazione, liquidazione, i soldi girano, poi ti fanno la chiamata, lavorare, devo puntare a capo, purtroppo bussi, e tu vuoi, purtroppo meglio, qua pago io, sottoscritto io, devo suonare io e pagare io qua dentro, tutto. Luca, non è il fatto che, vabbè, quello che ho passato io, lasciamo perdere, che sono abituato, Luca, quando c'era lavorare mio padre, si lavorava con mio padre, però avevi un impero, e solo che questo impero è andato a quel paese, e dunque io mi sentivo forte perché avevo un impero. Adesso che con l'impero non ce l'ho più, pazienza, e devo andare avanti, e dunque però... E c'ha ragione Claudio, vai avanti, per la vita tua, e stai tranquillo, lo so, però certe cose mi urtano le balle. Ma con babbo le ha avuto 2-1, vedi, con 5 figli a carico, mia madre, io un po' tu, quella giù basta 2 euro. E sono sicuro che sei stato meglio di me, sicuro al 100%, non al 1000 per 1000, no, al 100%, io no, vedi un po'. Lo so, Cla, ma lo so lui, però, lo sa, va bene. Questo è il mondo della radio, Antonio Grobe. Però, hai capito, smettila. Sono tra me e te, che ho sempre fatto quel lavoro lì. Quindi sono i problemi della radio. Quando abbiamo preso quella cosa per fare non per mangiare la cosa, ma è lì io sto per uscire, andare a comprare le sigarette. Ora Luca, anch'io, che ciò mi viene un po' male, capito, viene un po' in salita, capito, ma avendo la possibilità ho detto cazzo, mi ha perso le maniche e vado anch'io a fare quello che c'è da fare, però quando non ce n'è, capito. Anche ciò, e io devo ringraziare che c'è mia madre, che mi dava un colpo di mano, se no sarei stato veramente della merda. A tutto devi dare, a tutto, questa è, assicura assistente, non di nulla, ne ha fatto per 2 anni di qua, questi 2 anni, e volevo sapere quanti piedi hai nel culo, scusando il termine, volevo sapere tutto, no? Tutto. Non dire la verità, purtroppo loro sanno su tutti i catti tuoi, i catti miei e i catti degli altri. Non è una cosa corretta secondo me. Mi serve il biliardo e va a fare, no, scala fatto lui. No. Vabbè, comunque, vedi, però piano, anch'io non è che. Anch'io me l'ho passato. Claudio, Claudio lo sa, perciò. Vedi un po', purtroppo piano piano mi porto tutto quanto io, mi stiamo la roba, mi lavoro la cameretta, mi spolgo i mobili, io tutto mi posso, tutto, e quando arrivo a casa sono franco morto, purtroppo vedo che a fare, non è così, quando mi lavoro, vabbè, mi fanno la mangiare, un lussi, mi lavoro la roba, poi adesso la faccio tutto io, e poi non c'è da pagare, pago io, mica pagano gli altri, faccio, vedi un po' tu, adesso vi tengo una miseria a giorni. E quelli sicuramente servivano per pagarmi quello che c'è da pagare. E non ho senza soldi. Aspettare l'altro 15 e sono piano, non va. Non mi devo piccare. E vabbè, c'era anche ragione anche tu, Luca. fai girare, apri le prese già, dai. Se non ti ammazzano di essere il figlio, devi avere forza di lottare. Non so che le nostre sono parole, magari esserci in mezzo è molto diverso, però so che poi cade in depressione del figlio, allora non hai più la forza di lavorare, quindi devi avere la forza di lottare. Poi quando trovi lavoro sei bello più tante. Ok? Ok. Già, si vede già. Oh, io, vabbè, dai. Non ci facciamo più, dai, facciamo la domani che è un altro giorno. Giuseppe, domani c'è il mercatino. Vabbè? Andiamo al mercatino. Vabbè, lo so, ma domani devo fare quella... Devo andare a rompere i coglioni a quelle persone là, capito, Cla? Domani mattina, in zanzara. Vediamo cosa cazzo la esce fuori. Vai Giuseppe, vai. Vai perché non è un reato andare a bussare le porte a quella gente. Vai, tranquillo e sereno, con molta dignità. Capito? Perché bisogna andarci. Io ti ho dato un input, una dritta, chiamala come vuoi. Ti ho aperto gli occhi. Loro devono fare quel lavoro. Se tu hai già e sei già nelle mani degli assistenti sociali, loro devono cercare di darti una mano, spingendo e facendo, dove ti ho detto io, perché l'unico passo che tu puoi iniziare a fare è quello, come ti ha detto Luca, perché Luca lo conosco tanti anni e anche lui ha sofferto tantissimo. Tieni conto che lui a casa della madre e quindi però contribuisce a tutto, perché io lo so, conosco molto bene anche la madre, e quindi si soffre in questo momento, è una sofferenza totale per tutti. Ma tu pensi che io lavorando le ore che faccio dalla mattina alle 6, a volte arrivo alle 3, alle 4, a volte arrivo anche alle 5, alle 6 di sera, con un impegno sopra le spalle, con delle responsabilità che mi danno per eseguire determinate cose, porti a casa chissà che cosa. Giuseppe, quando siamo assieme ti faccio vedere la mia busta a parte e ho 20 anni di servizio, e poi ti metti a piangere davvero, perché è uno schifo totale. Poi se va avanti, poi non manca niente, gli ubi ci sono, adesso dobbiamo prenderci un caffè, vedi che ce lo prendiamo. Se questa mattina me ne parlavo, il problema l'ha risolto stasera. Non sarebbe successo questo tuo sforo, perché lo sai che non ci conosciamo tanti anni, quindi non è quello il problema. Però non pensare che gli altri vivano come loro, vivano di tante cose. Si vive perché purtroppo c'è quello stipendietto fisso che ti permette di andare avanti, di portare avanti la famiglia soprattutto. Ma non pensare che si possano mantenere più 3 macchine, 4 macchine come ce l'avevo io, che si possa avere la casa in campagna, che si possano avere tantissime cose. Non è più così, Giuseppe, non è più così. Ogni stipendio si va, si spendono 200-300 euro di abbigliamento. Non è così, Giuseppe. Non è così, nel modo più assoluto, è tutto bilanciato, è tutto proprio, deve camminare dritto, perché altrimenti non arrivi a fine mese, ma per chiunque, perché sono balle che uno possa avere mari monti, sono assolutamente balle, Giuseppe. Si vive per quel poco che abbiamo, siamo soddisfatti tutti. Ma la vita è diventata talmente una merda, talmente cara, che purtroppo non si può fare più niente. Quindi, io quello che ti ho detto, per continuare a dirti, abbi pazienza, rimani in quella linea che hai preso, e vedrai che uno sbocco c'è stato per Natalino, c'è stato per Luca che sta girando piano piano, magari fa 6 mesi, e poi ne fa presidio di occupazione, quindi in analogia, poi rimane un'estate ferma, l'inverno rientra a lavoro. Si fa quello che si può, hai capito, si fa quello che si può e io in quattro non mi posso fare, dunque è quello il problema. E come ti ho detto, e come ti abbiamo detto, sono consigli d'amici che ti stiamo dando. L'ultimo dovrà essere Giuseppe, non c'è niente con l'ultimo. Ti ripeto, si va avanti, pian pianino, l'importante è non fare pazzie, non creare problemi a tua madre, non creare problemi a nessuno, e portare avanti tuo figlio come se niente fosse, capito? Se ci sono 50, 50 si spendono, se ce ne sono 10, 10 si spendono. Non buttarti giù e non avere questi bassi così che non servono a niente, non serve assolutamente a niente. Stare così accasciato, buttato, sembra che ti sia caduta una pietra sopra la testa. Pesadini Giuseppe, pesadini che ti conosco io e ce la fai ad alzarti, a futidini. Siamo usciti insieme, ti ho visto molto assente, infatti te l'ho detto, sei assente stasera, hai qualche cosa, ti ho detto di no, perché non ti sei sfogato, non ho capito, ma buona comunque, ho immaginato quello che sarei potuto pensare, ho immaginato la sogra, se avessi parlato magari ne avremmo parlato, se ci saremmo stati un po' di più. Detto questo, Giuseppe, io ti auguro di trovare più presto il posto di lavoro. E cosa ti posso augurare? Se non credo di trovare un posto fisso e stare tranquillo, là. Comunque non è il caso di abbatterti così, perché poi cadi in depressione ed è peggio. Quindi vedi bene che non è il caso. Allora riprendo io. Allora, lui deve essere contento, molto contento, poi lavoro piano piano, arriva. Cioè per tutti, non solo per lui, sono anche disoccupati già. Padre di famiglia, chi ha due o tre figli, io conosco gente, non faccio nomi. Disparati, però piano fanno quello da porta a porta, fanno quello che ci va a fare, vanno a lumache, vanno a pinocchietti, vanno a sparagi, vanno a tutto. E la giornata ogni giorno, quei 20, 30 euro a casa li portano già, ogni giorno. Faccio bisogna muoversi, ecco. Io muoversi, adesso sì, io finisco questi 6 mesi, faccio devo punto a capo. Però non mi abbatto, vado, chiedo dove posso chiedere, qualcosa va a dare una mano. Una cosa ti dico, Giuseppe, io non so, anni, io parlo sincero, non dico male, sono anni che non mangio panettone come Dio comanda, anni, ok? Io quest'anno non mangio buono panettone, buono, perché me lo merito, capito Giuseppe, me lo merito. Comunque con la cosa, i panettoni sono più buoni quelli in cielo fatti gli altri, perché quelli sono quelli che usano per la prova e cercano di farli bene. Sono panettoni che usano per fare le prove e poi fanno quelli proprio, diciamo, quelli scantolati, quindi anche quelli in busta, li compro anch'io, quelli della sinistra sono molto buoni. Naturalmente se c'è gli ospiti non puoi mettere qui, però. Io mangio anche quelli lì. Aspetta, li fa mangiare, allora già, lo so, lo mangio anche quello. Io mangio il panettone, quello con l'uva passa e basta, senza scorte d'arancia e mezza che mi batte nel schifo. Poi ti sto dicendo che quest'anno io mi mangio un panettone anche da 20 euro, da 15 euro quanto costa, non mi interessa. Però non lo mangio perché non lo merito, avanti qua. Giuseppe, fammi un sorriso però, non ti ha detto che bisogna non abbattersi, ok? Bisogna andare a fare asparagi, bisogna buttarsi a tutto. Noi domani, che è lui, che è il poco traffico, ci travestiamo e andiamo a Frosci. 50 euro al colpo, beh anda. Ahahahah. Non mi fa ridere, Cla, per favore. Cazzo, cazzo. Perché se pronunciamo quella parola di quella persona lì, cazzo. Mi sa di questo video. Non ti preoccupare, Giuseppe. Fai un momento che ti lascio. Allora, un giù. Tutti solo, organizziamoci. E io porto il capo greco. Dammi nel culo, mi nel culo. E poi non pagare. E cazzo di aria. E portate una di Amapua, che lì, ok? Sì, poi io ti accompagno domani, però stai attento, perché le cose, se che migliorare, cazzo, possono peggiorare. E dimmi cosa ti dice il giusto. Carità, per carità, va. Ma però, vabbè, è andata così, dai, oggi è andata così. Me l'ha compresa anche con Luca, che mi dispiace che mi sono comportato in quella maniera. Mi ha trovato una giornata, stamattina eravamo tranquilli, però stasera mi hanno detto delle cose che non mi hanno girato, molto i coglioni e me la sono presa un po' a cuore, capito, Claudio? Dunque, perché aspetta, mi hanno toccato una cosa che mi ha ferito molto, hai capito? Ah, poco fatto, mi interessa Giuseppe, anch'io ho i miei problemi, eppure vedi, sono sempre qua. Qua PC, qualche amico al computer, amici qua ovviamente, no? Che si sentiamo un amico, che non si sentiamo un amico, mi interessa. Passata, volevo dire una cosa a Claudio, mi sono dimenticato, mannaggia di Turchia. Vabbè, non mi ricordo. Comunque, e tu che sai fare? Ah, Giuseppe, allora, vabbè, Giuseppe e Claudio, Gianni, comunque io un giorno, allora, ero proprio disperato, ero lì, non ero lì con Barle, mi servono 50 euro, dovevo pagare la luce, mi mancavano 50 euro. Però, chiedendole magari a pomeriggio qualcuno, poi ritornavo, prendo volte a dei soldi, so cosa ho fatto, non sono riuscito a procurare questi 50 euro, sono andato due giorni a Lumacche, ho fatto 10 kg di Lumacche, le ho vendute 50 euro, le ho regalate, le ho vendute a quella che stava all'angolino, cazzo è morta, adesso che ti ha mandato lì, se ti ricordi una donna vendeva Lumacche, 50 euro, questo mi ha fatto un culo che io non ti dico, su latte, camminata, a piedi. Lo faccio, 10 kg, lo faccio, 50 euro, ho aggiunto, ho pagato la luce. Mi sono andato in buccia a Carai. Capito, quello che voleva anche sapere l'agnello, che era un marito e moglie, che lui ci aveva la moto carrozzella. Che ha fatto il cartello, Quisi, tutto attaccato, Quisi, Veno, Bini, l'agnello. Tutti e due morti sono. No, no, lui no. Lui abita via, se passi in via Petro, ma in via Lurra, questo faceva il Bartoni. Poco più su della salita lì, alla tua sinistra, abita lì. Se lui direi che piano di motto qui, che sono le sue. Venivano anche a portatore, se no se mi fosse autorismato bene. E dappertutto andavano già. Per farti capire, vedi Giuseppe, a tutto, allora, c'era un... se è morto, Franco, la moglie di Franco, lui si alzava alle 5 del mattino, se ne rientrava al lavoro, andava a prendere fiori, a lumache, asparagi, a lumachine, a tutto, lui la giornata, ogni giorno se la faceva, quei 20, 30, 40 euro, dipende da... anche di più. Quando scivano quando c'era il primo delle mimose, facevano una tettina mimose. E si diceva, hai fatto pure lui, ho visto, mi ha detto. Oh, già. Ma, Giuseppe, fatto anche io. Quando vai a guardare i 50, tu organizzi, quando hai il tempo delle mimose, non vai della maglio, ti fai comprare le bustine, ti compri un filetto di mimose, se non le trovi mai da rubare da qualche parte, ti fai mattettini, te ne vai sulla taglia, apri il cofano e ti vai la zurrada. Come ti puoi fare 200 euro, come te ne puoi fare 250, come te ne puoi fare 150, dipende da te, e dipende da come dalle persone, dipende da come fa il mazzetto, dipende da quanto lo vendi, E anche quello, tu pigliato tu ci facciappi. Tu mi fai la macchina viene male, vedi, a procurare il ferro, no, sono vecchio, portagli il ferro. Se no puoi anch'io di là, buscarti il rame, tocca di chi manca, ti fai in giro, ti metti 10 euro di benzina, io nella campagna a buscare il rame, tocca di chi macchia, poi quando arrivi a un tot di chili, vai te lo vendi. Perché me la dici, 30, 40, 50 euro, maniso, così tu devi inventare il lavoro. Lo so, Lu, non so, ma come ti sto dicendo, quando una persona non ne ha mai fatto le cose lì, non ha mai fatto di quel lavoro lì, viene un po' in salita, capito? Viene un po' in salita e aggiungere altro, io di quella roba lì, di vendere ferro oppure vendere lumacchio, vendere fiori, e quella roba lì non ne ho mai fatto, però faremo anche quello se il Dio ci dà la porta di fare, poterlo fare, speriamo, e io mi auguro di sì. Giuseppe, chimica. È capitato una volta uno questo discorso e l'ha detto l'amico, lo vuoi fare di là? Ho detto bene, se non siete lavoro non c'è problema, tutto questo qui va niente bene, mi tiro con qualche cartola, ha fatto una cassetta di cartone, la mia ha preso i lattifi, l'ha detto due rivendi a un euro di cartola, cioè 30 cartoli per fatto di là, si utilizzi la misura, tu non ti preoccupare, lascia di stare così, sono misura standard, si è messo a venderli, un signore mi ha detto che non li comprerò, vorremmo tutta la scatola, però vorremmo provare la misura, e dopo farli vedere la misura, una bucata, uno si è concentrato, deve andare la misura. E quanto ce ne vuoi 40 mia là? Avevo uno manno, supermanno, cazzo di profilattico, cazzo. E nel minoritolo non vuoi entra, cazzo. Tu te ne manno uno se ti appiccite, però uno appiccite diventa troppo feo. Ma cazzo tu, ma cazzo qua. Uia. Uia, per carità. Ma io un po' di vedere, ci prendiamo un caffè, non ho quello che vale. Vabbè, non c'è problema. Solito posto? Sì, non c'è problema. No, una mattina non ci vediamo. E ci prendiamo un caffè. Allora, con delle lasce dei commenti. Ci fa un bel chiacchiere, ci mette un po' a posto, piano piano la situazione. Sempre la gatta, ragazzi, sempre la gatta. Andiamo per un domani si libero una sera. Fai una pica. No, domani sera c'è un impegno alla macchina. Devo andare a mettere quel tettuccio. È vero, è vero. Dammi una bella, la merella. Ehi, lui è. Questa settimana mi volerà per chiariterra. Già oggi mi è proprio per attendere, eravamo tutta mia lì. Oggi mi ha inviato l'ultimo bene, queste mie miei camerette, bella bianche. No, no, in questo tanto devo fare niente. Mi sembra di no. Le finestre devo fare esternamente, una a una, piano piano. Domani mattina devo per forza muovere, farò un sacco di cosette. E poi si vedrà, insomma, c'è un bel contatto per una settimana, non è che cambi qualcosa. Va bene. Chi che c'è in quel X già? Se vuoi parlare, puoi parlare tranquillamente. Credo che una cosa sia... sia reciproca. Io sono qua. L'importante è che non ci attacchiamo uno con l'altro, di solito non si vede neanche i cani, quindi per me buongiorno, buonasera, massimo rispetto e io non ho nessuna difficoltà. Come vedi, sono qua assoluto al mio posto, quindi mi dà più fastidio che stai in ascolto e non ribadisci i discorsi che si fanno e altro. Per me va bene così. Il saluto non si neghi anche ai cani è l'ennesima allusione che comunque accetto simpaticamente, che sicuramente abbiate dato dimostrazione di come si tratta un amico, non v'è dubbio, soprattutto detto da due persone che sono molto come si può dire, sincere e allo stesso tempo anche magnanime, nel senso che non hanno mai avuto problemi ad aprire la tasca, questo ne sono testimone. Intendevo dire generose. Io su questo non posso che ringraziarti. Devi capire che io faccio radio a modo mio, vivo il mondo della radio a modo mio, ma umanamente penso di avere un carattere molto molto tenero e soprattutto molto umano. Non vedo una persona che in questo momento sta affrontando mille difficoltà per mille problemi che sono sorti tempo fa con appunto la morte del padre e la situazione familiare che poi si è andata a creare per tutto il patrimonio che aveva. Giustamente non è una persona con la quale, nella quale ci si può volare così, non darle consiglio, non cercare di fare vicino. Noi stamattina eravamo tutti a fare segni e quindi non ci ha dato adito di niente. Stasera con Gianni, non so neanche se ne è accorto Gianni, ma non era così. Ci siamo accorti da una frase detta così scherzosamente dunque e lui è un po' scattato, quindi ci siamo accorti che non era in netta forma e adesso ci ha dato la conferma, però si sa, i momenti così si lasciano perdere tutte le cose alle spalle e tutto quello che può succedere, perché nella radio ci sono gli alti e bassi, perché nella radio non c'è il suo carattere, perché nella radio uno la fa da 1 a 10, l'altro la fa da 10 a 100. E quindi bisogna avere anche il buon senso di capire e passarci sopra. Io sono uno di quelli, forse tu sei l'unico che ancora mi ha conosciuto poco e te l'avevo detto, che io sono fatto diversamente e sono fatto con pasta dura, purtroppo è così. Però per me il discorso è già chiuso, non voglio più sentire, non voglio più parlare. Era una battuta rispetto parlando, non ti volevo offendere, non volevo fare allusioni, come dici tu, perché allusioni faccio ben poco, se non mi tocca parlare in faccia. Comunque, mi saluto, non si vede neanche i cani, ma cosa che mi diceva anche mia madre, quindi è sempre in senso buono, nel senso che per l'educazione è saluto, bisogna sempre farlo, poi sta all'altro dire buongiorno, buonasera o rispondere, no? Faccio per me il discorso è già chiuso qua. Io ti chiedo una cosa davanti a tutti, parliamo di cose, ma l'importante è che non mi chiedi cose dove io non ti devo rispondere, dopo di te perché tu puoi fare quello che ho tranquillamente, avrai il mio consenso e accesso, perché il canale non è il mio, pertanto tutto va bene. In giornata come oggi credo che tutto il resto siamo via, dopo quello che ho sentito da Giuseppe. Giuseppe, ti metto il microfono per salutare Antonio Grotte. Sì, buonasera Antonio Grotte, buonasera, saluto un amico, ben entrato nel canale 10. Dunque, il discorso di stamattina con Claudio, di quando ci siamo trovati, mi ha fatto molto piacere perché mi considero degli amici, mi considero un amico anche te, e mi sarebbe piaciuto che tu ti unissi agli amici e faceva molto piacere se volevi partecipare al ritrovo di tutti quanti i vecchi CP che erano stamattina in verticale. Io ti ringrazio, non mancherà sicuramente l'occasione, ti dico comunque che sicuramente è molto più facile passare dalle stalle alle stelle piuttosto che dalle stelle alle stalle, però le cose cambiano dall'oggi al domani, come cambiano in peggio cambiano anche in meglio, quindi non ti preoccupare perché la ruota gira, come ti ha detto bene Claudio e come ti ha detto bene Gianni, quindi non ti preoccupare. Sono tempi duri per me, capito, arrivati in questi periodi e Claudio è nel conoscente di tutto quanto della mia famiglia, conosce abbastanza bene tutta la mia famiglia, dunque sa cosa sto passando e cosa ho passato. Dunque rilancio il microfono a Gianni, doppio, vai Gianni. Vedrai che le cose cambiano in meglio, non ti preoccupare, non sarà sempre così, dai. Adesso piano piano vediamo, dai, se anche io sento qualche cosa, non ti prometto nulla, però se sento qualcosa, se provo a chiedere, proviamo un pochettino se riusciamo a infilare da qualche parte. Sì, vabbè, per adesso ti ringrazio già, non ci sono problemi. Avanti Luca, ci sei? Se Luca è andato di nuovo a mangiare il tiro o a fucilare la cuore. Giuseppe, su con la vita Giuseppe, a me deve la Giuseppe di Sibarucchi, mi ferra bravo. A proposito, se ti ricordi anni fa io usavo quella nera e tu quella bionda, quest'anno tu usi la bionda e io la nera. Va bene, non ci sono problemi qua, però ci dobbiamo distigliare le gambe. Le gambe no, io mi muovo le calzette, gli si tappano il bello. Via, per carità. Via, stomaco cazzo, mi è venuto anche mal di stomaco cazzo, porca puttana. Dai, guarda, per carità, dai, lasciamo perdere il tuo discorso, dai. Tiriamo avanti e rimanere avanti con la vita, perché è così. Caro Claudio, io ti considero come un fratello maggiore e i consigli dati da te sono buoni e accettati, dunque non come amico, come un fratello, capito? Un certo fratello che avrei voluto avere. Mattina, quando ci siamo visti Giuseppe, non voglio riparlare, se avevi problemi a parlare, ma tagliate mi chiamati da parte, e tu lo sai, che quando io sento queste cose, no, lascio da parte tutto, perché questi discorsi a me mi toccano in particolare, mi toccano perché, come ha detto Luca poc'anzi, tu un padre l'hai avuto, io l'ho conosciuto, è una persona che vi ha fatto grande, vi ha fatto filare, nel vero senso della parola, dritti, perché sei una persona che non ha mai avuto delle sbagliate, ha camminato sempre dritto per la sua strada, ha avuto sempre un orgoglio, una dignità, un bel posto di lavoro, perché lui l'ha creato, però purtroppo Giuseppe, possono succedere le cose che sono successe, che l'azienda possa andare male, che ci siano grandi difficoltà nel prendere tutte le parti, prendere tutto, creare quel poco che è servito per andare avanti, per farci grandi, per farci studiare, e per non farci mancare niente. E grazie a Dio siamo cresciuti, nel bene e nel male. Capito? Però cosa posso incriminare oggi? Io ho un posto di lavoro, lavoro in mezzo alla merda, me ne manco lavorare in mezzo alla merda, lavorare la merda porta soldi, mi porta lo stipendio, mi fa stare bene, non lo posso dire, Giuseppe, neanche io, benino, non manca niente, va bene così, ma vorrei tante altre cose che non posso avere. E quindi cosa devo ricriminare oggi? Che se fosse vivo mio padre, che già nel 1960 il Pasqualino Mamiri di Pomotore sentò in bugia di Sassi, erano dipendenti di mio padre, perché aveva due negozi di autoricambi e un'officina abbastanza attrezzata per i camion e per i trattori. A di allora, che i fratelli di mio padre sono i più ricchi di Alghero, cosa devo incriminare? Che se fosse vivo mio padre oggi Claudio sarebbe stato re di Sassari. Non posso dire, Giuseppe, perché può darsi oggi per me, oggi anche mio padre sarebbe andato a fondo, capito? Però tu te l'hai voluto, Giuseppe, perché lo so che te l'hai voluto. Ti ho visto vederti tuo padre, parlare con tuo padre, vivere con tuo padre. Io invece manco quello ho visto. Eppure siamo andati avanti tutti. E oggi si vive nel bene e nel male pensando se ci fosse stato lui, sai quanto mi sarebbe servito oggi a 50 anni per sfogarmi, per parlare, magari fosse anche un rincoglionito, solo a toccarlo, a vederlo, eppure non ce l'ho di lui. Lo so, lo so, vabbè. Però c'è sempre quello detto che prima noi, detto da figli, l'abbiamo trattato nelle condizioni che l'abbiamo trattato, poi quando ci manca, è vero, quando ci manca cazzo ce ne pentiamo, perché è sempre stata una persona che ci ha dato tutto, ci ha messo un impero e noi non abbiamo saputo gestire, perché anche quello c'era quello da dire. Siamo stati noi figli che questo impero, avevamo un impero e non abbiamo avuto la buona volontà di poterla mandare avanti, hai capito? Dunque, se no non c'eri stato in queste condizioni, anche tu c'hai ragione, però bisogna andare avanti e tirare il mulino quando te lo possono fare a tirare, capito? E l'acqua piano piano si tira, da dove stai facendoti le tue piccole ossa, hai capito? Quello è il discorso. Dimmi già. Non puoi stare tu la vita piangendo il passato. Quindi c'è una pietra sopra, è presso presente adesso. E vabbè, adesso ci pensiamo già e vabbè. Vabbè, andiamo avanti, dai, cambiamo discorso, tutto è diverso. Voglio che questa serata sia una serata divertente, capito? Pensare altro, dire cazzate, barzellette. Basta che si chiuda in bellezza questa serata, perché per me sentire a te Gianni, Claudio, Luca, va bene, non aggiungo altro. No, perché quando è arrivata a me che gli è venuto a piangere, forse. Giuseppe, stai su, aiutai. Mi se no, vengo a prenderti e andiamo a berci una birretta, davvero? Altra birretta, se vuoi, la birretta te la posso anche venire, vieni qua e te la offro io. E mi farebbe anche piacere, capito? Ma fammelo dire due volte. Ma per me non ce n'è problema, tu. Non sai dove abito. Basta che ce n'è problema. Ma stai benissimo. Non ce ne sono problemi. La casa mia, diciamo casa mia madre è aperta a tutti. Quando ci sono gli amici, che tipo Claudio, tipo Gianni e tutti qua, e compagnia bella, per me non ce n'è problema. E non c'è la possibilità di potervi invitare qualche sera qua a casa a cena, perché non lo posso fare, capito? Vabbè, ci sarà il momento, un domani, che potrò dire, beh, c'ho quella cosa là, vi invito tutti quanti a cena per festeggiare di nuovo questione di trabacco, hai capito tu? Papà Giuseppe, guarda, ti ho detto una cosa Gianni, però tu hai una cosa molto preziosa che non hanno tutti e non la devi perdere, che è sicuramente la salute, che ti metterà nella condizione più presto di svoltare, quindi vai tranquillo. No, la salute è abbastanza buona, solo che se l'ho detto, giorno per giorno, quando succede queste cose così, che Gianni già mi ha capito perché cosa sto soffrendo, ma neanche per mio padre, soprattutto per l'altra persona, hai capito? Figlio. Che poi a Gianni? Chi? Figlio. Verticale. Cosa c'è per un po' così, un po' campattenaria questa cosa. Davvero, è capace. stata veramente un'aria che sono arrivati lì e avevano detto cose che non sono piacevoli, capito? Vabbè dai, che se ne sono accorti adesso questi bastardi di 12, eh? Da quando era ricoverato, da quando all'età di 6 mesi che era ricoverato il bambino, si sono accorti adesso che c'aveva tutti questi disturbi, cazzo, l'ho capito. Ma io già, che cosa cazzo gliele fanno fare, scusa, Beh, non gli hanno detto niente di pericoloso, niente che ti possa, le cose si risolvono, se, se c'è un problemino, un bambino, si vede, si riesce sicuramente di mettere a posto tutto, insomma, non è detto che tu, cazzo sei, se tu sei il padre, devi cercare di dare supporto a questo bambino. Come cazzo fa questo bambino ad avere un supporto dal padre, Giuseppe? Se tu non tiri fuori tutta la tua grinta, non tiri fuori tutta la tua forza, come fa questo bambino ad andare avanti? O deve stare soltanto con la mamma e vedere a te una volta alla settimana? Quindi deve fare, Giuseppe, o vederti in queste condizioni? Guarda che non è stupido, me. Non è un bambino con dito in bocca, me. Scusa, Te lo so, Cla, non va il fatto che il bambino lo... e c'era tutta quanta la cosa, non parla, e c'è una parte di un cervello con questa fisco che c'ho il foglio che ti farò leggere, capito, l'altro adesso, e poi agli esiti, ha detto se viene un soffio dalla cosa, il bambino ha problemi anche al cuore e dunque si arriva al riparto, si deve fare secco, capito? Grazie. Cosa è la questione? Ma dai, io non credo che sia una cosa così diagnosticata in 5 minuti. Credo che i medici anche a parlare, diagnosticare una cosa così veloce, non voglio crederci, insomma, dai. Ci saranno dei controlli più approfonditi che possano poi garantire magari il disturbo, però un effetto medico un po' più tranquillo e sereno, Giuseppe, non ti abbattere così, cazzo, non essere pessimista, a me buon senso di capire che a volte anche i medici possono avere quell'attimo di giusto per disfarsi del paziente o disfarsi del familiare del paziente, dire delle cose un po' troppo affrettate, quindi magari insomma capire, non dico olio per cipolla, ma capire sì che è diagnosticata una certa malattia, ma non è che sia così effettivamente in modo particolare come stai dicendo tu, dai Giuseppe, non mi fare pensare cazzo a queste cose, alla fine poi Madonna santa, ragazzi, molto meglio che non c'è più. Non lo so, Antonio, ci sei? Sì, che ci sono, ma partendo dal presupposto che un referto medico, adesso io non l'ho letto, però già mi stai dicendo che si sono messi sul, ti stanno dicendo forse, cioè quando è pieno di troppi forse alla fine non è attendibile, quindi se tu se hai un dubbio, mettiti nella condizione di mettertelo in macchina, lo porti a Cagliari, e vedi un attimino di sentire il parere di altri medici, assolutamente fermarsi a uno, sai, molto spesso i medici sbagliano, soprattutto quando sono così lapidari, quindi ci penserei una o due volte prima di disperarmi, assolutamente. Allora, c'ha questa malattia qua, o Claudio, la sindrome di Pitt OTKINS, sai cosa vuol dire? Claudio. Sindrome di Peter Hodgkins. sarò dopo di a tu. Scusami un attimino, non ho capito bene. Ripetimi, fammi lo spelling. Pitti. Pitti. O. H. O. P. Una J, una I, una N e una S. Ma ha problemi al sistema linfatico per caso? Bevi? Al sistema linfatico? Allora, questa cosa qua è una malattia che è nata dal sottoscritto, capito, perché aveva dei problemi dei parenti in queste condizioni, e avendo una cosa che poi spiegherò verticale, facendo un'altra cosa, ha lo stesso problema di questo bambino qua, capito? E io non posso avere, detto bene chiaro, non posso avere più figli, capito? Ho capito. Va bene, dai, ne parliamo magari in un altro momento. Ok, dai, ne parliamo un altro momento, perché in baracchino non mi piace dire la mia cosa privata, e poi quando ci vedremo ne parleremo. Tanto domani mi dovrei incontrare con Claudio e risolvere una questione che mi ha detto stamattina, ok? Ti saluto, ti auguro un 144 e un coso per domani, dai, ci sentiamo tutte le prossime, dai. Ciao, grazie per il corseo e alle prossime, ciao ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ti ringrazio, ti ricambio il buon QRT, buon 144. Stesso tempo a Claudio e a tutte le persone che sono in ascolto. Ci sentiamo domani. Io rimango un attimino in ascolto, dopodiché chiudo definitivamente. Ok, Claudio, ci sei? Sì, dai. È mezzanotte 10, anch'io ancora mia figlia di guarda la TV. Mi voglio dire mamma, ciao Antonio, buonanotte anche a te, in famiglia. Vabbè. Comunque buonanotte a te e a casa. Ciao Giuseppe, mi fa piacere se ci vediamo domani, giusto per vederti un attimino e guardarci in faccia e riprendere il discorso a quattro figli, Giuseppe, perché ciò che è successo stasera è, sono cose belle sfogarsi anche alla radio, perché come sono le persone dove puoi garantire e essere garantito di un supporto, è sempre bello, a prescindere da tutte le cose che ci possono stare in radio, perché purtroppo la radio è fatta anche di questo, di comprensioni, di valori, ma soprattutto di anche le debolezze, e quindi quando ci si affronta un discorso del genere è chiaro che ci si diventa dei buoni cinquemente. Perciò domani ci vediamo e riprendiamo quattro di questo discorso e tutto quello che si riuscirà a mettere assieme, insomma, si vedrà di capire, di saperne di più. Io non sono un esperto di medicina, però vorrei capire a parole che qual è il disturbo che c'è tuo figlio, dopodiché si possono prendere o accettare dei consigli da qualcuno che giustamente ne sa più di noi. Ok Giuseppe, un abbraccio grande, fatti una buona notte, la notte porta consiglio, lo sai, te l'ho già detto, quindi rifletti bene, sii preparato soprattutto per affrontare giornalmente quello che è la giornata di domani. Tirati su Giuseppe, perché è importante per te, per il bambino e per tutto quello che ti sta intorno. E cammina, ti ho detto, te lo ripeto, ribadisco, cammina a testa alta, non devi dare niente a nessuno. I problemi come te ce li hanno tantissime persone, il lavoro non c'è, la crisi in Sardegna è all'osso, ci stanno spremendo veramente le palle a tutti, anche a chi ci sera, dai. Ciao, buonanotte, buon 144, che molto, cosa per domani, che va bene, quando lo fai, dai. Ok, di nuovo, ciao, buonanotte, grazie per adesso. Ciao Giuseppe, un abbraccio grande, ciao anche Antonio, ciao a Luca, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando sul canale 10, buonanotte a tutti. Ciao.